E vi potete presentare, cioè cosa fate nel tempo libero magari, che passioni avete? Io sono Samuel, ho 18 anni e non ho nessuna particolare passione, tranne che sono un fan della tecnologia e di tutto ciò che provvede il futuro, nel senso. Mi chiamo Asrif, ho 17 anni. Le mie passioni sono la pesca, fare l'arbitro di calcio, seguire il calcio e box. Cos'è per voi la fragilità? Per me la fragilità è quando ti trovi davanti a un problema, è impossibile risolverlo con le tue forze e quindi rimani lì fermo a fissare il problema e aspettare. Se quando la vita era mettere essere fragili e riuscire a comprendere certe emozioni senza essere spaventati. Potresti descrivere la tua fragilità con parole chiave, con colori, suoni? Un colore che mi fa pensare alla fragilità è grigio, il tempo atmosferico, quando piove. Potresti descrivere il tuo punto di forza? Il mio punto di forza credo che sia la mia voglia di ascoltare le persone e cercare di andare d'accordo con tutti, o almeno con quasi tutti, anche se però comporta dei sacrifici. E secondo me il mio punto di forza è l'empatia e riuscire a rivedermi negli altri, cercare di ascoltarli e aiutarli al meglio e sì, rivedermi in loro. Per me il mio punto di forza è riuscire a capire le persone. Come state in questo momento? È abbastanza complicato riuscire ad esprimere certi argomenti, siccome magari a volte si cerca un po' di nasconderli e stare così a nudo un po' crea un po' un senso di paura. In questo momento sono un po' teso perché ho paura di essere frainteso e ho paura di usare le parole sbagliate per comunicare quello che voglio dire, insomma. Anch'io mi sento teso e ho paura di non saper come rispondere alle domande.